Il punto di Stefano Folli. Non serve girare intorno alla questione. Il giudizio della Commissione europea sull'Italia viene certo da un organismo in scadenza, ma non bisogna illudersi che nel prossimo futuro le cose cambieranno di molto. O l'Europa cambia nel profondo le sue strategie di politica economica, e questo non sembra realistico nel medio periodo, oppure le regole resteranno più o meno le stesse, e con le regole anche i giudizi e gli avvertimenti nei confronti di un paese, il nostro, il cui debito pubblico è a livelli drammatici. D'altra parte, si vede anche in questa occasione la volontà di dare all'Italia il tempo necessario, apprezzando gli sforzi del governo e considerando con favore il suo piano di riforme. Ma noi sappiamo che per evitare gli sforzi aggiuntivi, espressione sinistra che allude a nuove pesanti manovre, occorre incrementarle queste riforme con maggiore fantasia e determinazione. In fondo è per questo che gli italiani hanno votato Renzi alle europee, perché affronti il toro per le corna e non si limiti anche lui a spargere ottimismo nella speranza di conservare il consenso. Sarebbe un errore.